se non ti arriverà a te, no? Dove stai arrivare molto, molto più forte qua. Te lo dico perché c'è gente che l'antenna, un'altra di macchina arriva bene qua. Crepato, c'è la voce che fa quasi per mancare. poi già praticamente ho venduto un coso, no? Un portadiste, dei PC portatili, cioè dei portatili, uno piccolino, no? E sono andato a ricomprarlo, no? Che avevo girato, praticamente tu, cosa sono partito dal quadrato, poi sono uscito dalla pedagnetta, ho girato tutto la pedagnetta, alla fine, l'ultimo, se non vera, quello che è poco più avanti di, ma come si chiama quello, quello che avevo usata, non ricordo mai, no, vabbè, lì, dopo che ti sono girato tutto, ma questo Sassari, se no a casa ero morto, mamma mia, c'ho un mal di gola, stavo crepando. Ma il castello delle pusce? Che sono entrato una puzza in quel negozio, mamma, quel negozio, chiamiamolo negozio, un coso, un cantiere. Un multinario napoletano. Ma perché? Diciamo un PC, diciamo, portati, lo pagavano 100 euro. L'ho controllato, c'aveva meno di un giga di RAM. 89, vabbè, meno di un giga di RAM. È una disca da 40 giga. Solo lo voleva, 100 euro. Che computer era? Ma certo. Di fretta è meglio il mio, spendi qualcosa di più ma è meglio il mio, 100.000 volte. Il mio è da 80 al disco, da 60, non mi ricordo. Poi la decina di RAM, in più ho fatto la webcam. Vabbè. Ma io voglio prendere nuovo se me lo prendo, ma non è per adesso. Ma dai, rimango in ascolto, vi ascolto perché non posso parlare che c'è un disturbo. Ma se ho fatto il tuo disturbo, cioè, già non andava a me, boh, a me, sinceramente, gli avrei messo le cose in chiaro. Ma si cambia stanza, non è possibile, non è possibile, non mi stai disturbando la TV, devi andarsi in casino, va. Raga, vai, lo so, non per questo vivere. Esatto, già, sono le 9:30 però, non sono le 2 di mattina. Capisco, vabbè, ma avrebbe trovato a me. Io, sinceramente avrei parlato, poi che carabinieri va, chiamami, cosa fai? Chiamami, va, sono qua. Dopo una volta là finisco di parlare, cioè smetto. Per legge. Ma il bambino se ne vuole detto preso, capito? Io non ti non credi, a te lì. Allora, quando lo russa la notte, il bar in porco, una nuova baita. Se la boccia un tappo in bocca. Ma la voce è bassa. Non piano, guarda, avanti Stefano. Sì, vabbè, già, ne avevo già parlato di questa cosa, com'era, del TVI, ma TVI. Io poi non ho capito, questo signore proprio oggi se ne accorge che lo disturbo. Quanti anni è che vive vicino a te? Ho sempre rotto le balle, infatti è quello, usavo il muro, faceva, ma non mi ha un po' che cosa. Disturbi che in senso? Sente la mia voce. Per 10 metri si capi quando si sente il voce. No, ho capito, chi sei? Che forse, boh, non ti cosa, io sono doppio rum, avanti, buonasera. Io sono Danilo, da Latelotto. Ah, è quello che c'è il camper? Sì. Ah, ho capito. Mi avevi chiesto un controllo l'altra sera. No, io stai arrivando bene, dai. Io sono con uno stilo artigianale fatto a mano, con un'antenna così, sono. Le tazzone ci piacciono. Qua arrivi fondo scala, invece sei molto vicino a me, capito? Fondo scala sì. Lo smetterò, i fatti sono a 1000. Sì, mi sono afferrato col microfono, ma io ce l'ho fatta. Perché sto usando una Midland Alan 48, perché me l'hanno regalata, perché quella là era, l'ho messa in casa direttamente, invece questa qua la uso in casa. Alan 48, ma il baracchino? Sì. Ah? No, già vanno bene quelle apparecchi, Stefano. Già, sì, sto rispondendo, siamo all'SMS, dimmi. Domenica dovrebbe cantare mia figlia, a cosa, la piazzetta. Davvero? Eia, fanno musica anni 60, non so se sono un, due, tre, che cantano. C'è una festa di carnevale. Ah, ho capito, interessante. Ti faccio sapere se... Se canta ti faccio sapere. Fammi sapere. Noi ci andiamo. E con te regie. Ah, ho capito. Che bagarre. Sì, anche per farci qualche soldino così, almeno è indipendente, dico la verità, non ho mai chiesto una lira, ma che bella. L'estate poi a Gogò li fa spettacolo. L'estate è già tutta la Sardegna, sempre con Telegica. Poi l'inverno qualche spettacolo, qualche lavoretto, qualche cosa, se si arrangia. In più prende la borsa di studio, ma va a scuola. Che bella. Un attimino, ma si chiama Valeria tua figlia? No, si chiama Manuela. Ah, allora sto sbagliando persona, sto cambiando nome. Ecco, Valeria ce n'è, che si chiama Valeria. Ecco. Avanti così svogliato non è molto carino. Sono svogliato perché sono girato di scatola, anzi non posso manco la vita. Cosa c'hai, perché? Cosa è successo? Indovina. Quello vicino a me ha fatto una riunione condominiale, che sarà una riunione condominiale perché voleva le firme dei condomini per farmi togliere l'antenna. Guarda, è lo stesso problema che ho io, però io la risolvo molto tranquillamente, perché lunedì vado alla polizia postale e faccio vedere la lettera che sto scrivendo all'amministratore di condominio, dove innanzitutto faccio la foto all'amplificatore d'antenna che hanno, dopodiché si arrangiano, se vogliono chiamare l'escopot che la chiamino, così poi, però mi diffido pure da chiedermi soldi per dividere la multa che gli mettono. Centrati. Vengo subito. Bravissimo, aspetta un attimino, grazie Marco. Hai ragione, non ero centero, decente incintra, due cose ci dovrei essere. Ah, capito. La mia voce lo disturba. Aspetta un attimo, ci siamo sovramodulati, grazie Marco, adesso mi sa dovrei essere centrato. Ma io non ti ho detto niente, tanto cosa puoi fare? Si sente incentrato. Oh, lo sparviero, e allora, tutto bene? Benissimo, alla grande, tutto funziona. L'accetta un po' meno, comunque funziona tutto. Sai che non funziona? Accetta. Aspetta un attimo, so cosa sia l'accetta. Scusate un attimino, che devo fare solamente una cosa. Ok, perfetto, scusate. È un'altra cosa. E tu, Gianni Pium, che Matti che ha fatto te, già cos'è l'accetta? Non si può dire, vero, è Claudio. Ciao Antonio, ma è un regalo da Milano. Ehi, ti ho regalato i canditi soprattutto, i canditi. L'unica cosa buona che vengo che c'è di bene, a voi momento di bene, guarda chi. Buonasera a tutti comunque. Ciao, ciao Claudio, non parlare così. Ciao, ma oggi è bello, ci mangiamo bene, ci sono stato, madonna, tu ci mangiare, ma poi fanno dolci allucinanti. Dolci allucinanti, vabbè. Qui c'è anche Condoce, Condore, vedi? Ero all'ascolto. Non mi sembrava che Antonio fosse spostato, sentivo me. Strano. Ora mi sono spostato appena sono già da fuori frequenza. Ragione, Condom, sentimi un attimino, lo vuoi fare un affare? Aspetta, mi sta tormentando mia madre, un attimo, riprendete, dai. Sì, comunque ti ho portato una scatola di fumo, anzi di fumo. Fumo di Londra o fumo di Osa? Fumo della serie eravamo, lì c'è lo smog, c'era un tempo che facevi chi fuma e chi fa virumi, siamo andati via da qua che c'erano 24 gradi, figurati, lì era, di solito c'era nebbia e pioggia. Tutto lento Milano, in quel contesto lì è tutto lento, mamma mia, c'è il bugio, smog e tutto andare, vabbè che è una grande città, però mi rimane sempre impresso, vicino a me è un bel bello. Poi c'era una specie di, siamo andati al Bicocca Village, che è una specie di Tanit, però tu moltiplicalo per 10, capisci che cos'è. Tu immaginati che aveva 18 multisale, e ogni multisala era grande quanto il cinema Verdi, una cosa micidiale, tra l'altro con Dolby Surround, le poltrone comodissime. Ho visto il film di Carlo Verdone, se vi capita andate a vederlo perché è troppo divertente. L'ultimo che ha fatto? Caffa oggi. Premium. Premium cinema, andiamo avanti. Ma l'ultimo, non è possibile, non lo so se sia possibile visto che sta uscendo ancora in sala, è uscita da una settimana. Quanti l'hanno rotto? Quello l'ultimo che ha fatto, quello di... come si chiama? Ah, no, sì, ma era quello lì, era quello lì che c'era quella, quel passaggio che mi stava ascoltando nella... La Cortellesi, sì, la scena del muro che si stavano ascoltando l'uno con l'altro, sì. È perché a Premium Cinema sono istantanei, come escono dopo una settimana, qualche giorno, così, mi fanno subito vedere, d'altronde il pagamento, quindi. Penso che sia quello, se non sto sbagliando, ma mi pare che c'era quello lì. Io non è che mi guardo molto. Va bene, caro Doppio Room, ciao Stefano, anche buonasera a tutti quelli che sono da Milano, mi pare, buonasera anche a te, Claudio Sparviero. Caro Gianni, è triste Venezia, tutta la gadda. Sono da Nizza. Sto bene, ecco. Sì, ho guadagnato un pochino sull'antenna. Ah, scusatemi, scusandomi anche con Danilo e con chi era l'altro, non mi ricordo. Comunque non ho salutato Stefano, mi sembra di capire. Non ho salutato gli altri, ben sentiti da questa parte Antonio Grotti. Ma tu sei perdonato, storico domeno, non è un problema. Io invece ancora non sono ricordato in tutto, quindi mi dimentico. No, ora mi ascolto, stavo ascoltando, sono intervenuto. Quando ho sentito te un po' flusciato, mi sono accorto che lì qualche chiuzzi sopra. Va bene, Doppio Room. E quindi, questo signore, già Drumido anche tu. Volevo dire, per chi la vuole, ho una 5 ottavi nuova di zecca di pacca, una BA27L. Chi la dovesse volere mi contatti. Pensavo una 5 ottavi... tre bande, stavo già dicendo, posso prendermela io. Vabbè, io ho speso 160 euro per niente, vabbè, l'ho montata comunque, una manicera, l'ho montata nuova da 7000, ma non c'era bisogno di cambiare l'antenna perché non avevo dubbi che la volevo fare la perfetta. Cioè il connettore è nato completamente bianco, solo lì è bianco, si è coperto di questa pattina bianca, dell'umidità, della condensa, perché acqua non è entrata, però sicuramente causato proprio dalla condensa, non so. E quindi faceva questa lineetta di stazionario dopo 7004. Purtroppo leggeva in pieno e quindi non mi faceva sia la potenza. Pulito tutto, adesso è tornato alla normalità, 100 watt pieni, senza problemi. Sai cosa penso? Che ed è possibile, che essendo di due materiali diversi, essendoci l'acqua e dandogli corrente, si crea un processo elettrochimico che poi vada a far depositare appunto il calcareo, comunque la diversità vada a ossidare uno dei due elementi, dei materiali diversi, alla fine ti crea quel problema lì, soprattutto se ci va acqua e non sono serrati perfettamente. L'unica cosa secondo me sarebbe dargli una spruzzata bene di CRC o comunque di recontatti e dopodiché solarlo, evitarlo bene. Prego. Signor Vaglio, qui c'è Sandro. Ciao Sandro, buonasera. Sì, mi infatti fatto così, l'ho tutto, l'ho smontato prima di piazzare l'altra antenna, il connettore NPL. L'ho tutto pulito bene, soffiato bene, poi l'ho trovato passato il CRG, asciugato un po', alla bella meglio, ho rimesso. Il contatto è tornato alla normalità perfettamente. Avanti, città del Garraggio, buonasera. Comunque non sono addormentato, datemi il tempo di rispondere. Carpa, buonasera circolari e ben ascoltati da queste parti. Ok. Ciao Sabri, senti, ben sentito, un ruggito di una radio, un ruggito. Domani mattina ci faccio una bassa che ti devo parlare di una cosa. Se non me ne dovessi ricordare, fammi uno spillo che ti richiamo. Forse il giro, noi pensavamo che eri andato a svegliare il tuo amico, no? Ciao Sandro, mi senti? Ma da del tempo che da buon radioamatore bisogna lasciare lo spazio per rispondere, capito il tuo? Assolutamente sì, ma tant'è vero che sto cercando uno che mi dia lezioni come radioamatore, se lo trovate, uno bravo. Antonio. Io te le posso dare come CB, non come radioamatore, però. Come CB o me le puoi dare tu, non, come non vedente? Oh, grande! Ehi, ti stavo dicendo che mi hanno interrotto, mi hanno sovramodulato, che Claudio mi hai ficciato. Stavo dicendo, un ruggito più che una radio, complimenti. Domani mattina ti devo telefonare perché ti devo dire una cosa importante. Se me ne dovessi dimenticare, fammi uno squillo, ti richiamo io. Aspetta, e allora siamo a posto. E allora siamo a posto. Lo so, con tutte le cose che ho per la testa, probabilmente pure che mi dimentichi. Segnatelo in un dito, che forse fai prima. Lui è per la testa, capilli. Meno male che ce li hai tu, guarda a me, c'ho un gambo di voce. Ok, comunque, ascolta, a parte gli scherzi a tu, fatti sentire. Fatti sentire, non ti cavo di me, grazie. Ma c'è stata con la gente, ossa, dietro, si sentono più loro che tu, eh. Da qua sento una voce. Non lo so, sto mic, aspetta che abbasso un attimino. Cambio in bugnetta. Claudio, assorbe troppo sto mic, dai. Non ti assorbe. Oh, c'è un carino nel scopo canale, c'è il 45, come fa a stare qua? Non li assorbe, sa, non li assorbe tu, assorbe i rumori, io mi chiudo la porta con le MC60, microfoni Kenwood sono così, ma c'è una radio la paura. Cazzo, guarda, ho dovuto passare il livello, sono... Marco, sali a 10 un attimino. Lo so, io ho visto come lo tenevo a 2, se tu lo sollevi, mamma di tutti, già è forte così la radio, immaginate tu quando sollevi, è un bel forte, so, veramente, ma io già lo sapevo. Quelle due case costruttrici sposano molto bene, si possono invertire una con l'altra e sono una canonata, mentre l'ICOM un po' meno con... un po' meno, però quella è micidiale, lo sapevo già, non avevo dubbi. Ok, di una cosa, hai verificato, hai fatto le prove con quel mic lì? Con la stessa persona che mi ha regolato la radio, praticamente mi ha detto in romano, perché lui è romano, mi ha detto che non c'è sta differenza, un po' cambia la tonalità, perché hai visto che quello c'ha 1, 2, 3, però mi ha detto come potenza del radio sono uguali, precise identiche. Va bene, vuol dire evidentemente che si abbina bene. Va bene signori, io vi lascio, sono entrato soltanto giusto per salutarvi e quant'altro. Vi saluto circolarmente, Crode, fate sentire. Sì, se sono fatto a 10 con Marco. Va bene, glielo dico io dopo. Ok Sandri, quando vuoi lo sai, sono qua, non ci stanno problemi. Fai pure con tranquillità e con serenità, lo sai che non ci sono problemi. Va bene. Presto, saluti a casa e se coincide a domani. Avanti, chi vuole entrare? Allora Luca, riprendi tu e fai entrare a Danilo, che non gli abbiamo dato la possibilità di salutare. Yeah, avanti Danilo. Chiedi tutto, cosa... Riprendi, dai. Racconta Claudio dall'antenna attaccata al muro. Cioè, oddio. Così lui ti risponderà. Allora, fagli la due domande, quello che ha fatto a me. Avevo un'antenna in H che era appena vicino al muro e le stazionali mi sono salite a manetta, non a fare, a manetta. Poi mi sono messo un'antenna artigianale, l'ho messo veloce, un regolatore e le stazionali adesso ce li ho due. Ma davanti al muro non ti puoi mettere niente per fare un dottore. Devi cercare di attaccarti il più possibile, lontano un po' da quello che può essere una parete riflettente, e chiaro che se ti attacchi al muro con l'antenna riflette, quindi tutto ciò che l'antenna irradia ti ritorna indietro, per forza poi fa salire a 1000, devi essere lontano dal muro, un po' lontano dal centro stanza, vicino alla finestra. La finestra non fa l'induttore perché è un sistema diverso, non ha parete, anche se hai la volgibile abbassata l'antenna vede l'esterno, mentre col muro non lo vede purtroppo, e quindi il caso è quello lì. Però vedo che stai arrivando bene, sei 5-9 qua, la radio è un po' bassina, ma comunque riesco a tirarti fuori perfettamente, quindi cerca di tenerti un po' o più lontano possibile dal muro. Ho sentito dal muro, quanto è? Quando c'è, ma c'è l'antenna interna? L'antenna? No, cioè ce l'ho esterna l'antenna. E se di 659? Ah, quella interna devi fare un centro stanza per poter almeno far riflettere l'antenna, se sia all'interno della stanza, un centro stanza. Se parete ti riflette, quindi tutto ciò che l'antenna ti ripeto vede e ti ritorna indietro, perché non ha piano di riflette, non vede, non è libera, non è libera. Quindi più fattibile metterla vicino alla finestra, anche con la volgibile abbassata, con la tapparetta abbassata, funziona bene. Adesso domani provo a mettere una placca sulla ringhiera e provo a allungarla un pochino verso l'esterno, questa che ho piantato. Questo va benissimo, se riesci a fare una staffa e metterla sulla ringhiera, mi ricordo il doppio room, quando iniziò, quando riprese a trasmettere, aveva un'antenna nella ringhiera e qua arrivava fortissimo, quindi la zona che lui era, la zona che tu, non è che cambia molto. Il doppio room, ricordi quando c'avevi quella con l'antenna sulla ringhiera? Anni. Cazzo, ma mi devi dare il tempo di riprendere, già anni? Gianni ha salvato Rocci, commenta zio Camillo. No, Gianni è qua. Ecco, allora perché non riprendi? Ma su niente, sì. Perché ero in un altro canale, adesso sono ritornato. Ma tu devi rimanere qua, non devi andare ad ascoltare Antonio Grotte che dice un sacco di fesserie, capito? Rimani qua. Ti ricordi, ho detto, quando avevi l'antenna del fagiolo tu, che avevi ripreso a trasmettere? Sì, che mi ricordo. E spiega a Danilo come l'avevi piazzata. Sul ferro, allora prima una l'ho messa sul ferro dello stile di biancheria, che era il ferro, e avevo fatto una staffa abbullonata al ferro dello stile di biancheria e poi l'antenna abbullonata su questa staffa. Tutto lì, non era niente di che. Sto usando un piccino da 8 mm in alluminio come antenna e vedo che mi state prendendo tranquillo, anche bello grosso. Tu dire l'alluminio l'hai fatto a tu? Fatto un metro e mezzo come lunghezza. Io, vabbè, ho costruito quello della macchina e mi ha dato delle grosse soddisfazioni. Ah, se va bene, quanto ti dai stazionare? Bassarla a Corciano non ce la fai. Mi fatele la tagliarla con tagliatubi, però devo guardare la lunghezza giusta a quant'è esattamente. Ma le stazionali su che canale te le danno? Allora, qua al 5 sono al 2. E se vai su 40? Aspetta un attimino che vado veloce veloce veloce. E porta a 3. Ecco, devi tagliarla. Noi devi tagliare a millimetro a millimetro, sino a conti dalle stazionali che vuoi tu, capito? Le stazionali si misurano, si va sul canale 1, poi c'è il trombanda che sarebbe il 20 e poi sul 40, le controlli in queste tre parti dovrebbero risultare più o meno lo stesso, va? Tu quando dopo che tagli misuri sia nell'1, se prendi vedi che 1, 2, 1 e 3 lascia restare, capito? E così te le regoli bene una volta per tutte. Ma cosa ti ha messo? Carica? Come l'hai attaccata? Non riesco a capire. Allora c'è un piede in legno, questo piede in legno l'ho attaccato vicino in alluminio, poi c'è un regolatore di carica, tempo che sole qua, il centrale, che è il polo caldo, e laterali, che sono una la casa, e l'altra uscita centrale, laterale, che è quella che va all'antenna. Vabbè, comunque, se riesci, la grata si può fare anche con un filo elettrico, Sì, avevo questo rigido che ho usato. Se hai un filo d'asta del libero, te lo metti lì, l'antenna è di poco. Il filo di rame che adesso qua quanto ne puoi. Pensa che io ho strutturato un fondino di rame pieno, da 3 a 4 mm e mezzo. Pago qui. Sta marcendo. Ah? Cazzo. Allora anche i pali preoccupa. Pali. Pali per le antenne. Ogni tanto qualcuno ce n'è, bisogna vedere come sono messi. Ma marcito quello di via del 48 adesso pure l'altro. Io dove sono io in via del 48? Allora lì ce l'hanno sempre, sono nuovi quelli che avevano. Solitamente ce li hanno. No, quelli con vendita sono in ferro. Ferro zingato però. Il tocco permette lì esternamente. Esatto, tubi d'acqua sono. Sì, diamo, ce l'abbiamo dal 21 fino ad arrivare all'89, che è quello del 21. Si parte da quello più grosso a quello più piccolo. Per sollevare l'antenna sul tetto. Quando io mi dovessi mettere un'antenna, mi metto un tubo da 42, lungo 6 metri, a voglia che ci arrivo. Ah, sempre lì. Mi sei preso. E io, allora vai. Caffa. Gava. Ma Sandro ancora qua? No, avevo detto di... Ti ricordate mai di chiamarlo più domani? Mi farò uno squillo, insomma. Perché lui sicuramente si dimentica. C'erano tanti di quei pattici, c'ho 2000 mai che qua. Non mi hai sentito prima che stavo comunicando in 2 metri senza rendermene conto. Ti ho sentito. Ma non sono intervenuto per dare meno all'occhio. Un pacchiccione, vabbè. Walter, non si è sentito, di Aboli. Oddio. E occhi di matto. Non so se l'ascolto. Non sento nessuno lì, io sto entrando pochissimo, ma era una pelle tutta la sera. Chiamando le 7000 e il microfono, pensando mi ha portato l'MD1, l'MB1, per provare, lo stavo testando per vedere se c'erano differenze dall'85, ma differenze non ce ne spingono tutte e due uguali e cambia leggermente la tonalità di voce, ma proprio un pelino. E quindi niente, sto facendo le prove una telefono. Non ci sono stato per niente in WF stasera. Ma sei di un 680? Sì, 80. Senta, dai, un attimo mi corri di spermare e riprendo subito. Riprendi Gianni e fai girare. Ascolta, non so se sia rimasto Luca o chi sia rimasto. Avanti, capisci, tu e Michelino e fai girare tu perché non mi ricordo chi ci sia. Ma perché rimane in ascolto? Perché li stupo là. C'ha paura del vicino. Ma io rompiamo le corna al vicino, così Gianni può ondulare. Ho paura di nessuno, voglio evitare solo le cose là. E vabbè, però ricordati che quando la libertà degli altri limita la libertà tua, ciò inizia a essere un'imposizione e quindi ti dovresti ribellare, perché tu li paghi i soldi ogni mese, cioè ogni anno. Te immagini se fosse 12 euro al mese? Quindi, ma uno ha il diritto di fare quello che vuole nel momento in cui rimane entro i termini di legge. Tanto è vero che ti ripeto, domani mattina faccio bella lettera all'amministratore, se vuoi te ne faccio un facsimile, così gliela porti anche a quello di quelli là. Le firme se le mettono per il campo santo. Ma perché? Precompilata? Cioè, c'è un modello particolare da compilare o a mano libera? No, a mano libera, però gli alleghi il diritto d'antenna, le leggi sul diritto d'antenna e tutti i casi già che sono... sono già avvenuti, nel senso che diciamo la legge italiana ha come fondamento anche i casi che si sono già trattati, che hanno avuto un esito negativo, diciamo, per i condomini che volevano farne togliere l'antenna. Quindi sono fonti di diritto, quindi di conseguenza se tu li alleghi, già la sentenza è già avvenuta, ti aiuta, diciamo, nel far valere quelli che sono i tuoi diritti. Ok. Ma piovendo sta? Non sta piovendo, non sta diluviando. Vi lascio, ci sentiamo dopo. Ehi, acciato, non me ne ero accorto, c'è tipo un casino in pioggia adesso, tutto da una volta è sceso. Che avviso c'era? Comunque, io sento modulazioni su modulazioni sovrapposte, un casino, e un canale molto, molto disturbato il 5. Sembra che vadano tutti qua. E anch'io sento delle voci dal canale, Vabbè, e io seguo la ruota, vi saluto, buona serata a tutti, buon proseguo di questione. Ciao Gianni, Danilo, Luca, Antonio, Marco, non so se c'è Stefano all'ascolto, Sandro e così via, sono aspettatevi tutti salutati e passo il correttivo. Vi faccio due cosette qua e poi me ne vado a nanna che domani me vado a fare presto. Buonanotte a tutti, a domani, ciao. Eccomi, ciao Claudio, ci sentiamo le prossime. E mi sa che seguo la ruota anch'io se casino qua, non voglio temporali con l'antenna attaccata agli apparati, se no ciu. Chi c'è rimasto? Gianni? Vabbè, Gianni l'ascolto, Luca, l'ascolto. Ti ascolto a mano appena, Eugenio. C'è il QRM a 5, propagazione più che altro, tu arrivi 7, te la sento. Chi è Eugenio? E chi è da Porto Torres? Danilo, non è da Porto Torres, grazie dolce. Ah, Danilo, credo fosse Eugenio da Porto Torres, sembrava lui. Stesso segnale, stesso tipo di modulazione, quindi sono stato ingannato. Ma vecchio CB o nuovo CB? No, vecchio, un Alan 48. No, tu eri... c'eri da tanto o sei nuovo? No, io sono nuovo. Ah, ho capito. Benvenuto allora. Purtroppo qua la ruota si è sfaldata a causa vicini, stanchezza, maltempo, eccetera. Mamma mia, si sta caricando elettricamente l'antenna, si sente quella specie di fegnare, mi sa che scappa anch'io, non è tempo. Dani, io ti saluto, moduliamo in migliori condizioni, dai. Ciao, buonanotte a tutti e anche agli ascoltoni. Ciao Cargo. Io ti sento prossimamente. Buonanotte. Ciao. Buonanotte Danilo e buonanotte anche a Marco Condor. E poi ho una paura patologica di fulmini. Ma figa. Beh, però io vai solo, però... No, è una cosa innata che ho Gianni. Anche quando passo in piazze aperte, in posti molto... molto pianeggianti, liberi da ostacoli quando c'è il temporale, mi crea una certa una paura ancestrale, non lo so. Dimmi solo una cosa, ma il microfono bene sta andando? È tuo? Sì, sì, non lo so se è cambiato qualcosa rispetto a ieri, fatto sta che non lo so, ieri lo sentivo, sarà il primo impatto dopo il Magnum. Aspetta, ti fai un passaggio, ti alzo un po' il volume. Ieri perché non stavo andando bene, aveva un problemino, adesso l'ho aggiustato. Perché ieri in certi momenti era muffled, devo dire un po' come ho fatta, come... Comunque sì, è buona, non ti fare problemi già, è solo diversa adesso dal magnum, tutto lì, è un'altra timbrica, ecco. Comunque il magnum, se ti interessa, lo sto prendendo. No, dai. Ma tu, a cosa ti era rimasto a te? Beato. E se no, sì. Quello è quello grosso, è troppo grosso quello. Mamma mia, quello lo temo. Mi pare che addirittura non basti l'alimentatore da 30 per, no, per quello là. No, già basta. In bando laterale un po' si va. Per esempio a pieno regime, in AM, no? Quante ampere consuma, lo sai? E non l'ho mai notato, però sul peso qui 20. 20 ampere, caspita. Vabbè, allora, quella 30, se hai 30 ancora va bene. Boh, il Kenwood dicono che consumi 20 ampere, ma io anche a 100 watt non l'ho mai visto a 20 ampere. Capito? Poi già il fusibile mi pare che sia da 20, quindi... se non ricordo male, o da 20 o da 25, ma non ci arriva. Però si è modificato, sì, quando lo modifichi da 40 a 100 in AM, quindi manda la laterale, immagino siano doppi, quindi aumenta anche il consumo. Ma io non sono mai d'accordo per spingere gli apparati, boh, meglio che riposino. Sì, in pace, meglio che lavorino tranquilli, no, senza surriscaldare. Beh, questo è il problema di tutto, scaldano meno. Ma se sono fatti per arrivare a quei batteri dovrebbe essere quello là. Beh sì, alla fine il finale vi dà, diciamo che viene quasi depotenziato, perché 40 nm sono pochi alla fine. Sono buoni rispetto a 4 che sono un bijou, però. Ecco, ma la monte la tua figlia, per dire, ce l'ha 120 la Vespa, 120, 130, ma se tu la tieni sempre in tira, sempre tirando, alla fine è più di grippatore. Quaderno piano piano sta scendendo, vediamo se c'è ancora Danilo. Danilo, fai un passaggio. Senza antenna, Santiago 5,5. Eia, praticamente la propagazione che sia è sceso di 2 punti est, però è sceso di 2 punti est anche Danilo, quindi pari a cazza. Non uscire se Santella che dice finale. Forse l'ha tolta dal terrazzino, l'ha portata dentro. Ma l'antenna è attaccata. Filo c'è lui. Ah, boh. Pensa che Gianni, quando mamma era alla Maddalena ad insegnare, no? Aveva un baracchino e usava una mini Grand Plain della LEM, che ce l'ho uguale, comprata uguale, una mini Grand Plain della LEM, quindi alta un metro e meno di un metro e mezzo alta. Lo usava dentro casa attaccato a un porta asciugamani, è presente quello di metallo, e arrivava bene a Palau. Praticamente prima era un mortorio, quando è entrata lì si è riformata la ruota e ci si divertiva abbastanza all'epoca. Poi anche lì c'erano le fazioni, no? C'era il solito che ce l'aveva con tutti e metteva portante. Però se tu voci di donna, sono usciti fuori i curmai, i curvi. C'era un CD poveraccio, ha fatto una brutta fine. Modulava da un faro, era una persona un po', viveva un po' in stato di, come si dice, indigente, no? Era povero in poche parole, però viveva in un faro abbandonato e gli avevano regalato un baracchino modulato. Jeff si chiamava, mi pare, nominativo. Questa persona purtroppo si è addormentata di fronte al camino, roba del genere, ha fatto un scintillo, ha pigliato fuoco tutto e molto bruciato. E doveva essere proprio messo male. Era anche, era lo zio di una persona che conoscevamo bene. E purtroppo capita. Oppure chi si soffoca la stufa, mamma mia, bisogna stare attenti con stufe, a non barricarsi dentro la camera con una stufa per esempio, perché poi si mangia tutto l'ossigeno. Se sei fortunato si spegne prima la stufa, e se sei sfortunato ti spegni prima tu, che è la stufa. Perché chiusa le stufe dovrei imparare a umidificare l'aria. Generalmente quegli umidificatori che si attaccano. Cos'è questo rumore, aspetta? Ma non lo so, no, a parte umidificatori proprio ossigeno. L'umidificatore aiuta, però c'è gente che si chiude nella stanza, con la porta chiusa, lascia sicuramente con la stufa a gas. E poi succedono casini. Ma qua meno male si è calmato un po' la pioggia. Piazza l'ossido di carbonio che fa male. Sì, esatto, quello lì. Dalla combustione si forma quello e quando l'ambiente è saturo succede il fattaccio. Sento una specie di l'altoparlante, lo sento. No, è la ventola dell'alimentatore da falso allarme, stavo tenendo. Ora saranno troppi watt, però io lo voglio un kilowatt a 10, adesso abbasso un po', che palle. Ok, così va bene. 30 te ne sono. No, era oltre i 10. 12, 13 watt, lo voglio a 10. È una fissazione mia. La vita. Parecchio di regolare, non toccarlo mai. Cioè, se tocchi sempre lo slider alla fine del ballo. Però già ogni tanto necessita, che ne so, di abbassare in banda laterale per fare delle prove e poi migia, se ci sono le regolazioni vuol dire che servono, se no l'avrebbero fatto fisso, tot watt fisso. Certo che gli slider sono rognosi e i potenziometri vanno bene come i 440, però questi slider fanno proprio cagare, scusate il termine. Ma io te lo sto dicendo perché è un apparecchio che già i suoi anni, a fine di toccarli le cose un po' vecchie si rovinano, capito? Facci la regolazione giusta, non è il problema. Il mic gain per esempio è sempre sotto la C, il puntino del mic gain sotto la C, così come l'avevamo impostato all'inizio. Poi naturalmente già io lo muovo piano piano, millimetricamente, forse c'è gente che lo prende e fa da una parte all'altra come se fosse una grattugia. Un diavolo è mosso, se non li fai tutta la strisciata e ti consuma sotto. Eia. L'unica pecca di questo apparato è, ti ricordi che con l'altoparlante incorporato riceve male, ti ricordi che ha detto una modulazione brutta, sì, è come satura, come distorta, invece con l'altoparlante esterno è normale. Stavo pensando che l'umidità col tempo non abbia rovinato l'altoparlante. La membrana si rovina, basta cambiarlo. Ma lo usi sempre con la colonnina, va bene. Credo te ne frega, se con la colonnina va bene. Ho fatto sempre così male. Dimmi già, dimmi Claudio. È fatto sempre così. Oh, ma tutti i 140 lo fanno, no? No, quello in particolare è fatto sempre così. Era sempre un po' cupa, tant'è vero io comprai subito l'SP 430. Ho capito. Però qua per ovviare fare, ho messo una colonnina di baracchino che per me è già sufficiente, ce n'è d'avanzo. Questa è una Lafayette SP-121, c'ha anche il noise filter, se senti troppo fruscio, no, ti rende un po' più basse le modulazioni, quindi ti dà l'idea, anzi ti dà l'impressione che elimini cose. Poi c'è il tastino mute per quando, che ne so, ti arriva una telefonata, eccetera. Ma costa poco, 15 euro. Ci si mette la sua in media. Già mi sono avventurato a sfruttare il tuo barraggio. Mamma mia, il braccio me ne sta buttando, sto spostando il motore centrale perché era in una posizione che non mi piaceva. E quindi non lo sto spostando, magari mi sto facendo fatica a spostarlo. Ecco l'apparato, l'ho rivisto su internet, ma lo ricordo, era caratteristico perché aveva la manopola VFO, il principale è più grande, invece il VFO secondario era appena più piccola la manopola. Il sub VFO si chiama? Sì, sì. Già proprio il massimo del massimo, questa roba di credo 12.000 euro, se non di più. Era, mi pare, uno Yaesu FT 9000, può essere allucinante, allucinante, c'ha un display incorporato di tutto di più, olandese. E in più questo radiatore olandese aveva delle antenne che sembrava così a ARP americano, oppure sembrava quella l'antenna del Duga 3 russo, quello che creava quel disturbo a elicottero in 27 e non solo. Non c'è andare, non c'è bisogno andare in Olanda, no? C'è la polizia va per quella radio. Ah, e a dimensioni come messa, come la tua o più grande ancora? Un pochino più grande, come altezza e profondità sono uguali, un po' più larga. E quanto pesa? 50 kg? Quanto pesa 48 kg questa? Cosa pensi che pesi qua? 52, 50? Mamma mia! Quelle sono da lasciare fisse e non toccare mai più, perché se no ogni volta ne scende la mazza. Bella però, è porca miseria. Comunque le antenne del tipo erano notevoli. Vabbè, è che è un terreno pianeggiante a perdita d'occhio, no? Questa è l'antenne tralicci alti non so se 50 metri, ma era una cosa allucinante. Bello, bello. Peccato sia in basso, perché i paesi bassi sono un po' depressi, no, rispetto al livello del mare. Però ho detto, mi dico le volte, quando venire a fatti gli occhi, problemi non ce ne sono. Ne vedi grandi, piccole e medie, ma soprattutto vedi la linea valvolare, non so se ti piace. Ho detto, mi dico le volte, vieni qualche sera con Gianni, così vedi la radio, le vere radio, come sono, come non sono. Allora, ma ne scelgo una, me la porto via. Guardami, C60, qual è il problema? Ce ne sono altre in vendita. Tutta la porti via, io me la ricompro. Non ci sono problemi. Allora, magari. Ma io già, portati una busta che la ripiamo. Quindi Danilo, chi ha chiamato Danilo? Non l'ascolto io. Di busta non ne ho bisogno. C'è la maneccia per pigliarlo, io sono con lui. Non ho capito. È quello che voglio io, alla maniglia. Ma tipo 70-140? Io, la cosa di fuoco. Io, dimmi da lì. Non sono da lì, lo so. Io pensavo che andavo dal chirurgo a riporto di lui. Vabbè, anche quest'altro, il Jopix è omologatissimo. sponde laterali, certo che la realtà non la puoi paragonare. Il Geopix ha cromato tipo Superstar, no, frequenzimetro, l'altro è un aborto, però funziona bene. Questo Geopix come funziona? Allora, tu immagina il Galaxy Pluto, no? Il veicolare, però cromato, il frontale è color perla e cromato, c'ha quei tastini quadrati a fianco allo smitter, frequenzimetro a 5 cifre con quei segmenti proprio come il Galaxy Pluto, tutto lì, e 40 omologato, sposti un ponticello e diventa 240 canali. Tu li hai fatti? No, lo voglio tenere omologato, però appena arriva la primavera che sale la protezione, mi sa che glielo faccio. Mi piange il cuore perché l'avrei voluto tenere omologato, ma... Che cosa è quello? Quello è 245. Prezzo buono. Andiamo a vedere, io mi saluto, ma non c'è tutti. Capa già, sì, prezzo bene o male, conta che il Superstar senza frequenzimetro costa circa una cinquantina di euro in meno, col frequenzimetro sono tutti 50 euro in più, bene o male. Va bene già, buonanotte, ci sentiamo alle prossime, avanti Claudio. Claudio, ho mutato a 4.30 perché qua ci stanno spendendo, sto spostando un po' tutto. Ciao Gio, buonanotte, ci sentiamo alle prossime, stiamo bene. Io mi sarei mangiato un quintale di fagioli e avrei scorreggiato tutta la notte, così il visto più contento. Ciao Gianni, dimmi tutto. Mi sono stufo di usarla già. Come stufo? Sono sempre lì. Sto sempre modulando con quella, ciao, buonasera. Quindi ho detto alla fine, sono già stufo, non sono mai conformato. Dai, T5, due volte ma T5. Effetti 1000D. Sono tutti andati a letto già. Vabbè, io Claudio, poi c'è Franco, non è vero, aspetta che spengo questa merda, scusa, ce ne stavamo per andare, perché ormai, una giornata strana era oggi, no già, non l'ho conosciuto mai, non so quando modulasse, ma era modulato attualmente oppure anni fa. Coso rosso, luna rossa o nuvola rossa, ho capito male. Io lo conosco a Vittorio, ma di persona c'è una casa sua, e mi dispiace. Allora, c'era tutto, no? Poi gli era caduta l'antenna prima di un fulmine, gli aveva buttata giù, gli aveva proprio crepata. A morire, no? È che perché è morto lui, è morto, pazienza, condoliamo. Mondetta, non ho sentito più Mondetta, vado ai funerali seri, dagli amatori che ci hanno un bel roba, sto aspettando che muoia a Walter Diabolik per andare a prendermi tutto. Mi intendi? Sì, mi intendi, mi va, intanto Brunetto deve morire. Siamo nel Walter, Clara. Sì, ma ci muovo io, ah! Con Walter ci si guadagna, eh! Con Walter vi fate d'oro! Diccio, se sei una coppia da... Bucca, che non mi sei maleducato, ma fa vedere le conte io! Io lo sento basso, Cla! C'è questo cane, un bel sporco di QRM, poi sta piovendo anche, e non ho capito... mia sorella. Dici di? A soclavo. E io vado proprio in amore. Luca sta chiedendo, il figlio ha fatto il CD Master, vorrei sapere se c'è qualche studio che masterizza digitalmente su CD. Ma guarda, sai di sì, non so, se è normale qua a Sassari, qualcosa c'è, non so da però. Tu? E chi è Michael Jackson? La trombetta. Ho capito, no, io non me ne intendo di fisarmonica. Io sono il piffero, ho capito, quindi non me ne intendo. Non so manco come si usa la fisarmonica. Il piffero sì, sono molto, molto pratico. Visto cosa vuol dire usare apparati valvolari. Vabbè, sì, comunque scegliete uno studio professionale perché sennò fa cavolate. Comunque Luca, ho visto che i CD registrati in casa, CD e DVD sono una vera truffa, perché io avevo masterizzato DVD nel 2001-2002, sono già illeggibili, eppure io ho usato sempre il masterizzatore di marca, tutti Philips, eppure sono già illeggibili dopo 10 anni, e era meglio allora la roba analogica, nastri magnetici, roba del genere. Quanto è maleducato su Luca, mi parlo, non risponde. Ho capito. No, comunque già quelli fatti in modo professionale durano parecchi anni, decenni anche direi. Quelli fatti in casa, le masterizzazioni fatte in casa, sono illeggibili dopo un decennio, perché forse i masterizzatori casalinghi registrano troppo superficialmente, capito? I laser sono di scarsa potenza e non, la traccia diventa illeggibile dopo poco, no? Non ne vale la pena, mi. No, potente sono io, mi. Da Gianni, io quando ho preso il computer nel 2000 i dati li salvavo su CD e poi DVD quando sono usciti, però tutti persi, allora ho tutti i dati da salvare, il computer li sto mettendo su hard disk, uno da 500 giga ce l'ho già pieno e adesso ne ho uno da 1000 giga che più o meno è a metà, dai. È affidabile, a meno che non ci sia un guasto meccanico, i dati li tiene meglio. La mia pazienza. Allora, quello che avevo preso io è il Lafayette Ares Pro, è piccolino, è poco più grande di due pacchetti di sigarette affiancati. 40 canali AMFM, non ha smith, c'è solo volume, squelch e canali, più 3 tastini per AMFM, scanner, è omologato, io l'ho preso per la concessione, per presentarlo in caso di controlli. Poi, vabbè, comunque esce bene, ma è un giocattolino già. Nonno sì, nonno era originario di Florinas e mamma quindi quando è stata a Florinas conosceva Flora da quando erano bambine, ecco. Infatti poi ci è rimasta male quando ha saputo che era morta. E poi era carina Flora, è un peccato sia morta giovane, ma purtroppo capita. Oh, fate, io sono qua, mi sto ascoltando, sto facendo cose. Allora, noi parenti non ne abbiamo più a Florinas, il cognome è Pistilda. Aspetta che qua ci sono le campane a morte, mamma mia, io sono bello. Allora, noi abbiamo avuto un zio canonico, un prete praticamente, un pochino incline alla beozia. Avevamo uno che si chiamava Dio Sebastiano e quello beveva forte, era un po' sta già andando. Invece il fratello di nonno era medico condotto a Banari, era molto conosciuto lui. Poi non mi ricordo oltre Banari cos'altro abbia fatto. Salvatore si chiamava. Allora, ti dico cosa era successo un attimo. Allora, il nonno di nonno, di mio nonno, aveva avuto uno screzio con questo, come hai detto tu, bandito, no? Allora, questo bandito credeva che a fare una spiata fosse stato proprio questo mio bisnonno, no? Tant'è che l'aveva minacciato. E lui da quel giorno usciva con la doppietta, una doppietta corta corta, sotto la giacca, capito? Perché temeva rappresaglie. E poi invece non è successo niente. Tu Antoni Giau. Sì, l'aveva minacciato di morte, poi non so, la faccenda non l'ho mai saputa, il motivo, capito? È passato troppo tempo. Posso vedere che roba è. Vabbè, poi era bello andare là in paese, avevamo una casa nella via centrale. Avevamo varie cose, terreni, avevamo il vigneto, l'oliveto, poi tutto venduto, rimangono solo due o tre terreni, ma non sono grandi, non sono un granché, capito? Purtroppo la vita non è bella, ciao Mantù. Cioè, per me sarebbe la morte sociale, non potrei vivere in un paese, ma a me piace la città, già Sassari mi sta stretta perché non è un granché come città. Va bene, magari da piccoli ci si diverte perché si andava la vendemmia, tutto il resto di quello che si faceva all'epoca, poi è cominciato ad andare male, non capisco perché la vigna non ha più dato niente, o si è esaurita la terra, il terreno, non era più fertile, non me ne intendo io. Eppure sai che abbiamo venduto la vigna a un signore che comprendeva anche un rudere senza il tetto, erano proprio quattro cantoni in croce, lui l'ha rifatto tutto, quindi si è fatto un punto d'appoggio lì, una piccola casetta, e non so se ha messo piante nuove, fatto sta che gli fa un po' di uva, un po' di vino se la fa, è stato molto contento dell'acquisto della vigna. Perché lui molto, a me no, da fare la terra, ciu, ma tu sei aggiunto me, Gianni, lo più, ma lo sei aggiunto, passaggio lungo, sparito, beh, è riapparso adesso, Claudio. È scomparso il segnale e poi è comparso adesso. Sì, lo vedi Luca? Sì. Ma che cacchio di radio ha? Gianni! Come supera qualcosa lo blocca. Sì, c'è. E io sono e falco di due la vendetta. Cosa vivo? No, ma gli sparisce ogni tanto. Ehi, Gianni, ho capito in parte perché ogni tanto ti sparisce la trasmissione. Proprio sparisci di botto, puoi riappare. Guarda che non ci abbia falso contatto il PL. Morso. Faccio un figlio molto zappa. Come sei entrata? Aspo sentire Gianni un attimino che c'era un'interferenza. Mi ascolti? Forse si è accerto io involontariamente. Gianni, ogni tanto manchi di radio. Sì, chiaro. Sì, però già conta che non è che ci di importante muta, proprio sparisce la trasmissione. Questa deve essere qualcosa all'antenna, allo spinotto. Ok, Luca, quando ti chiamano non rispondi, quando invece non ti chiamano rispondi. Ecco, infatti. Caro sai, io non capo di buon niente. Perciò fame, come di fame? No, non sta mangiando, fra, sta succhiando. Mamma mia, di cosa vedo. Dopo mi faccio un bel panino al vitello tonnato. E poi mi tira in culo. Cazzo d'ora con lo donno. Mi ha regalato 15 kg, mi ha detto un mese e mezzo mania del donno. No, no, questo è il vitello tonnato, diverso. Un dodo, ragazzi. Non ci abbiamo già regalarmi. Un mese ci ho rimasto, però, ma niente d'uno. In tutte le maniere ha già fatto. Domani è la tonna, se devo fare i pecori. Lui ha detto che sono in realtà, che si deve mangiare giù in una posizione. Lì c'è un problema, Oggi mania tonno, mania. Fagiore minestra è sempre la stessa cosa. Sempre uguale. Fagiore. Marco, la vigna non ti piace. Hai detto la vigna? No, a me non piace faticare. Non faticare, perché se fatichi tu studi a casa non lo sei. Vabbè da, già arrivano i soldi in un modo o nell'altro. Capri due. Cos'ha il vomito? Vabbè, sì, se è quello, se è il mic, va bene. Ok. E basso capri due, è un casino. Allora, uno si chiama Coscore ed è una zona un po' rocciosa, cioè non c'è terreno morbido, è più che altro roccia, ed è in salita, ma non ti so dire la zona perché è un casino. E l'altro è vicino, non te lo so dire, è praticamente andando per una cava di sabbia. Purtroppo noi avevamo venduto questo Coscore che è invendibile, è tutto in salita. C'era uno che lo voleva, se non che per colpa, siccome di mia madre, mia zia e mio zio, no? Mio zio, siccome c'ha problemi suoi, ha detto che valeva di più, è scomparso, ha rifiutato di firmare l'atto di vendita e non l'abbiamo potuto vendere. Purtroppo non lo crepiamo. Purtroppo noi abbiamo il terreno più largo, non è area edificabile, eppure mi pare strano perché quello che c'è a fianco è edificato e come. Io ho sentito che per essere edificabile deve essere non inferiore a 8 ettari, una cosa del genere. E noi forse non ci rientriamo di poco, mi puzza un po' però per questa storia, non vorrei che stessero giocando lì per svenderlo, adolire, dopodiché lo fanno edificabile il giorno dopo e ci guadagnano un sacco, non mi è chiara questa storia. Infatti io sapevo che doveva essere 8 ettari per essere edificabile, al di sotto di questo limite non puoi edificare. Io, ci dovremmo interessare. E comunque adesso con questo casino della crisi è invendibile. Purtroppo quell'altro che era invendibile per via della posizione disgraziata, l'unica occasione che abbiamo avuto di venderlo, non abbiamo potuto venderlo perché quel cretino si è squagliato, capito? E si è dato latitante, non ha firmato e ci ha fregato. Sto vendendo un motocoltivatore. Quindi vendilo a Gianni. Ho la radio e l'antenna incorporata. Ottimo. Ok, no, mi stavano dicendo una cosa, Gianni. Mi ascolti? Via, abbiamo anche una cava di sabbia, un po' in salita, no, risulta. E poi si arriva, qui ci lavorava mio zio negli anni 70, no? Aveva la pala, l'escavatrice, e dava sabbia grezza, quindi sabbia non lavata, ai camion che venivano a prenderla. Cosa è successo? Che a valle, sotto un'altra azienda che aveva tutto quanto, quindi estraevano la sabbia, lavavano la sabbia, avevano anche i camion per portarla dove necessario, quindi gli hanno fatto ampiamente le scarpe. Non gli hanno chiesto di associarsi con loro, perché tanto, conoscendo l'indole di mio zio, non l'aveva mai fatto, quindi anche quella andava male. Magari noi ci eravamo andati una volta a sparare con gente del poligono, ti sto parlando di oltre 20 anni fa, e mi avevano proposto a me, che non sono il diretto erede, di fare un poligono in Tiroli, perché c'è una parete alta oltre 15 metri, quasi 20 metri, poi sfumato tutto perché ho parenti inaffidabili, quindi anche quello è andato male. Adesso ci si è insediato un pastore, si è fatto un piccolo recinto con le pecore, peraltro si è chiuso anche l'accesso con due reti di letto, capito? Lo chiude e non possiamo salire nemmeno noi. Un giorno ci voglio salire e chiedere appunto se prima di tutto si è chiesto il permesso per stare lì, per esempio a mio zio che frequenta lì. Perché se io devo andare in cava a farmi gli affari miei, ci devo poter andare liberamente, non che diventato suo. E vabbè, si vedrà. Negativo, Franco. Francesco, là, all'anagrafe Francesco. No, negativo, mio zio aveva solo la pala meccanica, poi chi voleva la sabbia si portava il suo camion, ed era sabbia grezza però, certe volte c'era anche carta di pecora, perché dalle parti alte facevano pascolare pecore, un tanto cadeva qualcosa, e quindi poi la pala è sparita. Praticamente una volta siamo andati in cava, aveva piovuto molto e la cava stava affondando nelle sabbie mobili e ci è voluto un casino a tirarla fuori anche. Poi è successo che questa pala è sparita nel nulla, no? E mio nonno gli ha chiesto che fine avesse fatto e lui non ha risposto e è scomparso, si è dato latitante come usa a fare lui, capito? Praticamente se l'è fatta in soldi, siccome la pala gliel'ha comprato il padre negli anni 70, quindi l'ha data a qualcuno, se l'è venduta, se l'è fatta in vino, capito? E è stato un po' una sciagura, capito, per la famiglia. Gran parte dei terreni sono stati venduti per campare lui, che non combinava un granché. Poi ha messo incinta a Coresta di Olmedo, quindi il fratello l'ha obbligato a sposarsi dietro minaccia, se non avrebbe il culo. È arrivato un figlio, insomma, a campare tutti, nonno, capito? Piatta, nel centro. No, negativo, niente figlia, se noi abbiamo avuto solo Renault. No, non mi risulta proprio quel nome negativo. E vabbè, poi lì in paese hanno tutti la maniera del bere, capito? Si fanno il bagno anche col vino lì, capito? Se no l'acqua fa mancire le ossa. Vabbè, poi avevamo venduto la casa anche a Florina, c'era una casa antica, già quando ero piccolo io aveva più di 100 anni questa casa, allucinante. E vabbè, comunque tutto malora è svenduto, capito? Tutto è svenduto. Eia, io vabbè, non è che ne parlo male per primo, lo conoscono in molti, tutti i bari sassi, quindi purtroppo. purtroppo io detesto anche, non detesto, non amo gli alcolici proprio perché ho visto come si può ridurre una persona quando rimane alcolista per 20 anni, capito? Quindi come avere un tossico in casa a me alla fine di Gianni, quindi meno bevo meglio sto, ecco. Beh, tanto il latte è un alimento sano, tipo io non vado matto, latte, latticini, tutto ciò che ci tiene dal latte, senza il latte non sapevo come fare, perché colazione, se non c'è il latte con cosa fai, buh. Vabbè, ogni tanto bisogna fare un po' di dieta, c'era un periodo che mi era venuta la pancia incredibile, sembravo incinto, e poi la professoressa mi ha visto e ha detto no, lei deve smettere di mangiare soprattutto porcherie, perché sennò non va bene. Sì, mamma mia, per carità, mi ricordo che dovevo mettere le bretelle, lo sai, la cintura non ne potevo mettere perché non mi potevo nemmeno piegare. Poi vabbè, mi ho operato di calcoli e da lì forse ho dimagrito dopo, ho fatto un po' di dieta. Ma capito, ma non ci vengo io. E lo stesso era là a fare il giro delle cantine quando c'era la vendemmia, poi questo vino nero pesante 14 gradi, e poi gli dicevano e come mai tuo nipote non beve? Beh, non voglio diventare come loro, no? Io c'era il periodo che non dormivo, di notte andavo a mangiare in cucina, ogni mezz'ora, un quarto d'ora andavo a mangiare una cosa, alla fine stavo la notte mangiando, perciò ero ingrassato un po'. Comunque bisognerebbe mangiare anche più pesce bianco, merluzzo, nasello, poi vabbè, buona dorata, molto buona. Invece quelle spinose, come si chiamano quelle rosse? Le triglie troppo spine hanno, è una rottura di scatola spinarle. Aspetta che un attimino, aspetta già un attimino. Ecco, sì, c'è del pane che il giorno dopo è pietra diventa. Invece certi tipi di pane rimangono ancora mangiabili. Poi al limite si mette nel fornetto elettrico, tagliato a fette, appena tanto da farlo fragrante, è buono. Buone le zuppe di pesce, sì. E poi già ho sentito gli esigi, praticamente non soffrono quasi di, anzi non soffrono proprio di attacchi di cuore, di infarti, perché mangiano 90% se non 99% pesce. La carne che contiene grasso, che fa un casino nelle arterie, capito? Loro pesce, merluzzo, quello che c'è, e campano un po' meglio loro. Poi colesterolo è un casino, per esempio mamma lo dà il colesterolo alto, mi pare il valore massimo fosse 200 o giù di lì, e lì aveva 320, infatti stavo prendendo già da tempo una cosa per, mi pare, o eliminare o evitare l'accumulo di colesterolo, si chiama Crestor, poi la sostanza ha un nome impronunciabile, tipo rosuvastatina, ma poi quello che prenderei, Crestor insomma, contiene quella sostanza. Purtroppo a me piacciono formaggi, carne, quella roba è piena di olio, di grasso, quindi questo sta migliorando comunque, sta migliorando. Da parte mia lo stesso, a me piace molto carne di maiale, poi roba molto speziata, molto piccante, io sono molto, per l'alimentazione sono molto, come dire, mangio porcheria anche, capito? non curo l'alimentazione, non mi interessa. E se dovessi stare solo una volta, l'ho fatto un po' di dieta, ma avevano prescritto a me 3 diete, una per una cosa, una per un'altra cosa e una per ancora. Praticamente sarei dovuto campare di riso in bianco a vita, o non esiste proprio. Roba speziata, piccante, chi più ne può. Poi faccio un uso sconsiderato di dolci, infatti devo tenere molto d'occhio la glicemia, perché in futuro potrei diventare diabetico anche. Io dove mi era venuta una pancia così, andavo spesso e volentieri al McDonald's, e lì è roba un po', è vero, è pesante, è roba che fa ingrassare molto. E quando non andavo al McDonald's andavo al Bandiera Gialla, piaceva mangiare fuori, chissà perché la roba mangiata fuori, ristorante, crocchette, trattoria, attiva di più. È una cosa che non ho fatto, magari la stessa cosa a casa la guardo più con meno interesse. E infatti già, mamma mia, non mi ci fa pensare, avevo il collo gonfio, ero grasso qua alle guance, al collo, se andavo Ciccio Papero, quello di Paperino, cazzo, più o meno sono le cose che prende mamma. Contro l'ipertensione, contro il colesterolo, purtroppo anche il nome era così, ipertensione, mamma mia. Una volta mia zia è medico lo stesso, quando era a guardia medica mi ha detto che era arrivato un signore che stava sanguinando dal naso, e non si fermava il sangue, gli ha misurato la pressione, per caso aveva la pressione, sembra impossibile, ma era così, tipo 280. Ma come fa uno ad avere la pressione 280? Credo che poi perdi sangue dagli orifizi. Sì, prima usavamo quelli a lancette che metti al braccio, sono più precisi. Con l'inverno per esempio un casino, quando c'è un bel di golfi a tirare su le maniche è quasi impossibile. Alla fine stiamo usando uno da polso elettronico, bello, te lo fissi al polso, prendi il tasto, fa tutto lui. Certo, l'ho usato solo in una certa posizione, per essere preciso, c'è scritto sul manuale, però bene o male la pressione la misura correttamente. I migliori erano, mi pare, quelli a mercurio, con la colonna di mercurio verticale, però sono fuori legge perché c'è mercurio, tra una carta di credito. A me non piace perché la foto è microscopica, non vedi bene la fisionomia della persona, ma contenti loro, peggio per loro allora. Ma limitarsi nel mangiare è brutto, perché ha proprio il gusto del cibo, a chi piace mangiare. Adesso sto adoperando un certo tipo di regime alimentare. Allora, a pranzo, se posso, mangio solo o il primo o il secondo, piatto unico, però non 2 cose o 3, primo, secondo, magari insalata, frutta. Sto cercando di mangiare solo una pietanza unica, capito? Mi piace più stare leggero, perché se mangio poco di più mi sento... è una sensazione strana, ti senti come quasi respiro corto, non so come dire. Ti senti oppresso, capito? Pieno, ecco. Quindi, meglio per me e meglio per tutti. Purtroppo bisogna adeguarsi. Io per esempio, molti qua in frequenza si stupiscono che io mangi a orari non convenzionali, ma d'altronde io mi alzo non presto, quindi colazione faccio tardi, di conseguenza viene spostato anche l'orario di pranzo e di cena. Stasera ancora non ho cenato, di solito ceno alle 11, oggi mangio adesso? E tutti si stupiscono che dice, come fa a digerire? Io sono che digerisce tutto, però oggi non ne ho tanto di fame, mangio giusto per, quasi per dovere, perché anche andare a letto digiuno non va, sennò poi mi viene fame alle 3 di notte e mi tocca alzarmi. Ho capito. Poi vabbè, ci sono certi uomini che insomma, arrivano a casa all'1:30, devono mangiare, se non muoiono, capito? Se non mangiano a quell'ora non muoiono. Boh, io questa cosa non ce l'ho, questo problema. Io mangio quando ho fame, se ho fame che ne so, all'1 mangio all'1, se ho fame alle 5 mangio alle 5. Non ho problemi d'orario, capito? Conosco gente invece che ne so, se non mangio alle 8:30 sembra che muore, boh. Non le capisco, capito? Sono abitudinari. E poi chissà per quello è il coso. Uno mangia con la fame, uno beve con la sete e tutto lì. Vabbè già, io adesso chiudo, no? Mi faccio questo benedetto panino. Ci sentiamo domani, buonanotte. Gianni, buonanotte, ci sentiamo. Ok, ciao Gianni, e io adesso mica dormo, adesso mangio, poi mi attacco alla TV per un paio d'ore, io prima delle 2:30 non vado a dormire, o meglio non riesco a dormire, è abitudine, capito, il ciclo è spostato di 4 ore più o meno. Va bene, ciao a tutti anche a chi ascolta, c'era Luca prima, Claudio e mi pare Fabrizio. Ok, buonanotte a tutti.